America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. If you were an actor like my friends, you would have been the richest actor in the world. Non so se qualcuno di voi ha riconosciuto questa voce, impeccabile accento inglese, voce simile, parlata, cadenza simile a quella dell'avvocato Agnelli, e la voce di Mario D'Urso. Mario D'Urso, personaggio celebrato a New York, grande conoscitore degli Stati Uniti, grande jet setter internazionale, che è mancato purtroppo il 5 giugno scorso, come molti di voi ricorderanno se hanno seguito in quei giorni la trasmissione, perché ne abbiamo parlato. Perché torno a parlarvi di Mario D'Urso, senatore, deputato, banchiere, amico della principessa Margaret, di Imelda Marcos e di centinaia qui negli Stati Uniti di americani. Perché? Perché qualche giorno fa, qui a New York, c'è stato un memorial a suo nome, dove io sono andato, mi hanno chiesto tra l'altro di dire due parole, cosa che ho fatto perché lo conoscevo bene, avevamo alcuni amici in comune, e la cosa che mi ha colpito di più mentre ero al Racquet Club, che era il regno di Mario D'Urso, un vecchio club d'altri tempi, un vecchio club di impostazione britannica con uno spogliatoio enorme tutto in legno, la cosa che mi ha colpito di più in questo club è che passeggiando col drink per la sala, ognuno raccontava una storia di questo grande personaggio che è stato Mario D'Urso, che ha colpito l'immaginazione degli americani, dei newyorkesi, per questa sua naturalezza, per l'essere, come dire, sempre molto originale, senza mai essere opprimente. E per darvi un'idea della celebration di questa sera, per esempio a celebrare la messa per Mario D'Urso, è intervenuto l'arcivescovo Bernardito Ausa, il nunzio apostolico, il rappresentante permanente del Vaticano, della Santa Sede, alle Nazioni Unite. Poi ha parlato uno dei più grandi imprenditori italiani negli Stati Uniti, Daniele Bodini, sentiamolo. And when they pick him up, fly over the Grand Teton, fly the, you know, the Yellow Submarine, see the you know, all the beautiful nature, landing in Cody, and when he landed, he said, great. But certainly when I was going with Avvocato Agnelli to St. Moritz was much better. Ecco, come avete sentito dalla risata, è stato un memorial felice, un vero party, come l'avrebbe voluto questo grande personaggio italiano di grande successo internazionale. E che cosa racconta Bodini? Era Mario D'Urso, era arrivato dal comune amico Gabelli, dall'altra parte della montagna, in Wyoming, dove io avevo un ranch, e mi chiama e mi dice, ma io vorrei venire a trovarti, come facciamo? Vieni a prendere qui, dove sono io, a Jackson. E dice, io invece ero a Cody, che è dall'altra parte della montagna, quindi non è che fosse facilissimo, per cui avevo, per mia fortuna, un elicottero, ho preso l'elicottero attraverso le montagne, siamo andati sopra il Grand Teton, l'ho raccolto, abbiamo volato sul parco di Yellowstone, abbiamo visto questa natura meravigliosa, una giornata spettacolare, dopodiché atterriamo finalmente a Cody, dove c'è il mio ranch, e appena sceso dall'aereo mi dice, è stato bello, però sai, quando volavo con l'avvocato Agnelli per andare a St. Moritz, era sicuramente meglio. Let's pay tribute to that spirit with gaiety and joy and kick up our heels in tribute to our great dear friend Mario D'Urso. Thank you. Kerry Kennedy è la figlia di Bob Kennedy, di Bobby Kennedy, il fratello di John Kennedy, e ha raccontato del rapporto straordinario di Mario D'Urso con la famiglia Kennedy. Kerry, devo dire, ha fatto un discorso molto bello, molto commovente, ha ricordato i legami con la sua famiglia e ha detto Mario aveva mille pregi, ha fatto a tutti noi molti regali, ma il più grande di tutti è stato quello di riuscire a unire le persone. Dear Rex, did you like the cup of tea? You liked it. I must tell you something. You are the most famous dog in the world. Ecco, questo è un audio spassosissimo. Mario Gabelli, del Gabelli Fund, dove Mario D'Urso sedeva nel consiglio di amministrazione, ha raccontato con grande affetto la serietà professionale con cui Mario D'Urso si occupava di business, questo suo essere banchiere. Ma la cosa curiosa è che ha fatto vedere un video girato da Mario D'Urso poco prima di morire, in cui era con il cane Rex. Mario D'Urso che dice al cane: ma tu sei, se fossi un attore, tu saresti il più grande attore, il più pagato di tutto, più pagato di tutti i miei amici attori, e allora magari daresti i tuoi soldi in gestione a Gabelli. Pensate, ha portato questo video a un consiglio di amministrazione. Chi altro lo avrebbe fatto? Non so, ma certamente lui era in grado di farlo, sapeva farlo bene, e anche se fosse stato fatto non benissimo, comunque gli si perdonava tutto. Infine, il tributo più importante, quello di Henry Kissinger, il grande statista che adorava Mario D'Urso. Sentiamolo. Over these years, of course, Mario had acquired a considerable experience. In questi anni Mario aveva acquisito una notevole esperienza e quindi diceva sempre cose molto giuste, in politica come in altri ambiti. Penso a lui durante le partite di calcio che guardavamo insieme a Gianni Agnelli, in cui io e Mario pensavamo al modo di tenere l'avvocato seduto per tutti i 90 minuti e non fargli lasciare lo stadio prima che la partita fosse decisa. Persino in quelle situazioni Mario aveva dei consigli molto giusti da dare. È difficile per noi, e parlo anche a nome di Nancy, pensare ad una vita senza la gioia di vivere che Mario trasmetteva, la pace, la serenità che lui rappresentava. Sapevamo che non stava bene e Nancy ha provato a dirgli che era il caso di sottoporsi a cure specifiche, ma Mario non parlava mai volentieri dei suoi problemi personali. Siamo stati abbastanza fortunati da riuscire a chiamarlo proprio poco prima che ci lasciasse, e ho avuto un'ultima piacevole conversazione con lui. Se mi chiedessero se qualcuno ha fatto la differenza, ecco, direi che Mario ha reso la vita più serena, gioiosa, calma e degna di essere vissuta, e ci mancherà profondamente. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che c'era solo una canzone che davvero calzava Mario D'Urso, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!